effetti a cascata per l'intreccio di relazioni che oggi contraddistinguono le democrazie contemporanee è intanto una crisi di valori e quindi significa che diciamo si confrontano e si scontrano, spesso si scontrano, una visione di una società chiusa che respinge l'altro, gelosa e preoccupata per la propria identità, e invece una visione di una società aperta, pronta a confrontarsi con altre culture. E questa cosa, come lei sicuramente ben sa, non è soltanto un elemento che viene fuori con i movimenti rabbiosi o meno, che poi sono, corrispondono alle caratteristiche dei movimenti e partiti populisti, perché già, voglio dire, parecchi anni fa, significa alla fine degli anni 90, inizi anni 2000, un politologo di grande prestigio, sicuramente non un razzista, ma certamente prudentemente conservatore, come Huntington, Samuel Huntington, e parla appunto di shock di civilizzazione e dice che oggi la crisi delle attuali democrazie sposta l'asse dello scontro proprio su questo terreno di due mondi, due visioni del mondo che si scontrano, che sono quella dell'Occidente e quella islamica. È quella islamica. Professoressa, moltissime grazie per questi suoi chiarimenti. Sara Gentile, autrice di questo interessante saggio, Populismi contemporanei, XIX-XXI secolo. Buona serata e grazie ancora. Grazie, grazie a voi, buona serata, arrivederci.